da Torino riguarda, insomma, scene di ordinaria repressione contro alcune compagne e compagni antirazzisti, e una serie di mandati d'arresto che oggi sono stati, o almeno si è cercato di effettuare da parte delle forze dell'ordine nella città di Torino. Intanto ci senti? Sì, pronto, ok. Niente, ci racconti un po' questa giornata, insomma, com'è andata, che cosa è successo? Sì, allora, questa mattina sono scattati degli arresti da parte della magistratura torinese, e la polizia ha cercato di effettuare 4 arresti e 2 invece misure cautelari, obblighi di dimora. Non ci è riuscita, nel senso che delle 4 persone che stavano cercando sono riusciti a trovarne soltanto 3, che sono effettivamente alle Vallette, e delle altre 2 per gli obblighi di dimora ne hanno trovata soltanto una, quindi stanno ancora cercando 2 persone sostanzialmente, una per una questione una situazione meno grave, una invece appunto per arrestarla. E questi mandati di cattura, e quindi la giornata è passata più o meno tentando di capire chi stavano cercando, e con i vari compagni concentrati davanti alle varie case occupate a cui la polizia faceva la posta, no? Erano messi fuori dalle case aspettando che la gente uscisse per prendere le persone giuste. Soltanto una persona è stata presa a casa sua, perché soltanto una persona di quelli che sono stati presi oggi vive in una casa privata, insomma gli altri sono tutti in case occupate. E la polizia ha scelto evidentemente un standard abbastanza basso rispetto a questi arresti qua, e quindi ha evitato di rompere e buttare giù le porte nelle case occupate, sapendo che poi hanno tutte case qui del quartiere di Porta Palazzo, Barriera, Aurora, quindi sarebbe successo un macello se facevano una roba di questo tipo qui, perché c'è comunque una rete di case occupate molto grossa, tanta solidarietà, e non se la sono sentita, quindi si sono limitati a mettersi nascosti negli angoli vedendo chi passava. Questi arresti sono stati fatti in seguito ad un episodio che della fine di febbraio, del 28 di febbraio, in cui c'è stato un presidio improvvisato, un saluto sotto al CIE, perché poco prima uno dei reclusi del CIE era salito sul tetto per non farsi espellere. Sapete che una delle pratiche che sta passando molto qui a Torino, già anni fa ne era parlato abbastanza perché uno era rimasto sul tetto 3 giorni, ma adesso ha ricominciato a succedere che la gente, quando arriva la polizia per portarlo via e rimpatriarlo, sale sul tetto in modo da perdere l'aereo o da perdere la nave, cosa che spesso funziona, tanto che l'ultimo che aveva resistito poi è rimasto una 20ina di giorni in più, addirittura un mese, e poi è stato preso di sorpresa, insomma con l'inganno sono riuscito a immobilizzarlo e a portarlo poi sulla nave. E quindi in seguito a questo, perché come sapete qui il contatto con l'interno del CIE è costante, quotidiano, dei compagni sono andati sotto a fare un saluto, come si usa, con gli slogan, i petardi e tutto il resto, ed è successo che un giornalista che abita lì vicino ha avuto la cattiva idea di nascondersi dietro un albero, non dire una spazzatura, non lo so, a fare delle foto, per cui i compagni si sono avvicinati per dirgli dacci il rubino, insomma, gli strumenti moderni, quindi c'era la scheda e tutto il resto, e quindi è nata una situazione così, appunto, in cui i compagni pretendevano di non essere fotografati. È arrivato anche il papà di questo, insomma, alla fine questo giornalista qui, che tra l'altro ha fatto anche il grossissimo errore, ma c'è scritto negli atti questo, di confessare perché il giornale lavora per Torino Cronache, che è un giornale apertamente razzista, che sta a Torino, sa che ha delle posizioni terrificanti legalitarie, e che si è schierato sempre molto apertamente, molto violentemente contro tutte le lotte sociali che ci sono in città, sostanzialmente, che è un giornale di delatori, che pubblica le foto, che invita la gente stessa, insomma, quando vede qualcosa a fotografare e a mandare le cose al giornale, e insomma, molto famoso, sono state anche delle lotte specifiche questo giornale qui, e ha fatto l'errore di dire per chi lavorava, quindi ovviamente la situazione si è appesantita, e poi la cosa è finita lì, e questo giornalista ci ha perso gli occhiali in questa baruffa, e dei compagni sono stati fermati lì dietro l'angolo, hanno fatto un po' di ore in questura e poi sono stati rilasciati. Stamattina hanno aspettato un po' per fare l'identificazione, insomma tutto il resto. Stamattina i giudici sono partiti all'attacco ordinando appunto queste misure cautelari, appunto detentive o non detentive. Adesso gli atti sono appena arrivati, quindi non è che si possono fare grossi commenti, però da quello che ho visto alcune misure sono della gente che hanno chiesto la misura per scritte sul muro del CIE o per petardi lanciati dentro, insomma. Le accuse di fatto sono insomma abbastanza irrisorie, a quanto sembra. Cioè, sì, perché noi inizialmente pensavamo che fosse più sul fatto specifico di questi occhiali mancanti, no? Che non sono la stessa cosa gli occhiali, però possono montare su rapina, cose di questo tipo qui. Ma in realtà adesso appunto poi da vedere meglio, ma buona parte della gente, cioè non, da quello che ho capito negli altri non c'è neanche scritto questo, ha fatto questa cosa qui nel senso delle situazioni più pesanti, insomma, che potevano lamentare complessivamente negli atti. Ma la gente è stata arrestata o ha le misure o la cercano perché ha minacciato il giornalista, oppure ha fatto la scritta sul muro del CIE, oppure ha tirato il petardo. Evidentemente questa qui è una cosa abbastanza di ritorsione e sull'episodio specifico e poi soprattutto, come è ovvio, sulla lotta continua che c'è di appoggio al CIE, per cui effettivamente, come succedeva anni fa, ma adesso è anche molto più forte, partecipata anche quantitativamente. Quando succede qualcosa nel CIE ci sono 20-30 persone, a volte anche di più, che corrono sotto il muro a battere e a dare sostegno a chi dentro fa casino. Questa cosa aiuta, da quello che capiamo, perché ormai abbiamo vissuto tantissimo l'esperienza di conoscere la gente che sta là dentro, che viene scarcerata o che esce, no, tutto il resto. Sappiamo quanto la presenza fuori dia coraggio, e la presenza costante e l'appoggio dei solidali anche poi telefonicamente, come spesso serve molto alle lotte dentro. Ovviamente questa qui è una cosa che la polizia ha già provato a colpire con un'inchiesta grossa qualche anno fa, in cui addirittura parlavano di reati associativi, hanno arrestato della gente per reati associativi, dicendo a questi qui sono quelli che organizzano le rivolte dentro il CIE. Ci hanno dovuto scarcerare nel giro di qualche settimana, cascato il reato associativo, adesso ci hanno dei processi su tutti i reati singoli. Evidentemente adesso tentano di caricare poi gli episodi, no? I singoli picchetti, i singoli casini che possono succedere, eccetera, per fermare, per far un po' la solidarietà rispetto al CIE. Però non ci ho riuscito quella volta lì un paio d'anni fa con questo giro di arresti molto grosso, che forse qualche ascoltatore vostro più o meno si ricorderà. Anzi, dopo quegli arresti lì poi la solidarietà rispetto al CIE attiva, insomma la solidarietà alle rivolte, ecco, no? Non soltanto più la denuncia delle condizioni disumane, tutto il resto è cresciuta, adesso è molto molto più grossa di come era una volta. Sono sicuro che dopo questi arresti qui crescerà e sarà ancora più grossa. Tanto che adesso io non mi ricordo più i numeri esatti, però in questo momento una parte del CIE di Torino è assolutamente inagibile, perché tantissime sono state le rivolte e le evasioni e gli incendi dentro il CIE proprio negli ultimi mesi, per cui di fatto la gente è stata poi in parte è stato svuotato e in parte la gente è stata è costretta a vivere in tanti nelle camerate, perché una parte consistente delle camerate di alcune aree sono vuote perché sono bruciate. È uscito un reportage fotografico, tra l'altro, da parte di un giornale anche di merda, in cui si vedono proprio le foto di queste camerate completamente inagibili. E il fatto che il movimento fuori sia riuscito a dare una mano, nel senso dell'appoggio, della solidarietà rispetto a queste rivolte, è importante, perché questa cosa poi vuol dire che il più piccolo è il CIE, meno gente possono prendere in città, le frontiere e tutto il resto. Per cui adesso altre novità io non ce le ho, perché la situazione è questa: su 6 persone che cercavano ne hanno prese soltanto 4, e quindi manca una persona che vogliono arrestare e un'altra persona invece a cui vogliono affibbiare un divieto di dimora. E vediamo in questi giorni cosa succede ancora, ecco, avremo sicuramente maggiori dettagli vedendo le carte e tutto il resto. Le prospettive adesso su questa cosa qui sono che sicuramente i compagni si faranno un paio di settimane dentro, perché come sapete quando ti arrestano su mandato il giudice ha già dato il suo benestare, e quindi c'è il riesame dopo 3 giorni, come quando ti arrestano in strada. E per cui sicuramente questi 15 giorni che passano, intanto che sappiamo cosa succede ai compagni, saranno 15 giorni colmi di iniziative rispetto a questi aspetti, ma soprattutto rispetto alla lotta generale del CIE e la necessità che abbiamo dentro e che esprimiamo ogni giorno di demolirli, questi posti qua. Senti, avete notizie comunque delle persone arrestate? Stanno bene? Ci sono state storie strane? No, tutto praticamente okay. Una persona è stata arrestata in maniera molto tranquilla a casa e non è successo niente di che. Gli altri sono stati presi fuori dal posto occupato perché erano usciti. C'è stato un piccolo tafferuglio quando hanno provato a prendere 2 persone che erano lì assieme, tanto che avevano portato via anche un altro compagno. Noi fino a poche ore fa non capivamo se quest'altro compagno portato via era stato portato via perché c'è il mandato anche contro di lui, o invece appunto per il tafferuglio che c'era stato. E tutto qua, però, sostanzialmente, insomma, adesso più che altro di oggi è una situazione di incertezza, perché sapevamo che cercavano varie persone, ma non capivamo quelli che avevano presi se erano quelli giusti, insomma. E nient'altro, però, sostanzialmente. Va bene, dai, ci aggiorniamo allora ai prossimi giorni, alle prossime ore, per avere così un quadro completo della situazione, anche insomma delle forme così di lotta che verranno indette a seguito di questa ennesima operazione poliziesca. Intanto ti ringraziamo e a presto. Grazie a voi. Ciao. Grazie a voi. Ciao.